In questo martedì 6 marzo diamo uno sguardo ai titoli. Intanto vi voglio segnalare che il Sole 24 Ore, che oggi apre su mercati in allarme su Madrid dei BTP più sicuri dei bonus, oggi fa un'iniziativa, vale a dire il Sole 24 Ore lo trovate a 2,50 euro in più insomma rispetto al prezzo normale, perché c'è in allegato l'anno che ha cambiato la vita degli italiani, un anno intenso questo, una guida pratica per rispondere a tutte le domande che gli italiani si pongono sulla nuova imposta municipale, quanto è possibile prelevare in contanti dal conto, sui preventivi iscritti dei professionisti, insomma questi alcuni esempi di domande per un anno che ha cambiato sicuramente gli italiani dal punto di vista della vita quotidiana in tutti i livelli. Allora, l'anno che ha cambiato la vita degli italiani oggi lo trovate con il Sole 24 Ore. Le scelte degli altri quotidiani sono queste. C'è chi sceglie la vicenda dei Marò, che ora sono in carcere, ira dell'Italia. Questo per esempio è il titolo del Corriere della Sera. I due Marò detenuti in India perché accusati di aver sparato dalla nave e aver ucciso due pescatori indiani. Monti fa l'indiano, così titola il giornale. Così Libero: liberiamo i Marò. Appello a Napolitano, mentre Il Giorno, il quotidiano nazionale, in trappola, e c'è la foto dei due Marò, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, che dunque vanno in prima pagina. Così per Avvenire: la battaglia dei Marò, incarcerateli, l'ira della Farnesina, l'India dice ci sono prove incontrovertibili. Ancora invece la TAV per Repubblica: TAV stop alle violenze, l'appello di Napolitano che non incontra i sindaci del no. E la Stampa intervista al ministro Passera: TAV fondamentale. Per Il Messaggero: TAV garantire lo sviluppo. Mentre sulle primarie del PD si concentra il Fatto Quotidiano: Palermo, resa dei conti nel PD. E Il Manifesto mette in prima pagina la foto di Bersani che, vestito da sposo, tutto triste, a fianco Rita Borsellino, vestita da sposa, tutta triste, c'è Bersani che si punta una pistola alla tempia. Il gatto perdo. Questo è il titolo. Mentre L'Unità: sono le primarie, bellezza. Allora, intanto, notizie dalla casta, dal nostro Parlamento. Ci racconta il giornale che lunedì hanno lavorato. Hanno lavorato in 9. In Parlamento, in 9 su 600, su 630. Francesco Kramer: aula deserta, in 6 a parlare di alghe. Questo è il titolo. Sì, in realtà erano in 9, poi nel pomeriggio erano in 6, 3 si sono dati, come si suol dire. Alla Camera si dibatte del pareggio di bilancio, governo fantasma, presente solo lo 0,9% dei deputati. Provate voi, cari ascoltatori, in una grande azienda, in una piccola azienda, al vostro posto di lavoro, lunedì vi presentate con una percentuale dello 0,9% dei dipendenti. Così di fatto è successo alla Camera. Cosa c'entra il pareggio di bilancio con le alghe sulla chiglia delle navi? Apparentemente niente, ma durante la seduta del 5 marzo 2012, lunedì alla Camera, si è discusso di questi due argomenti. Su 630 aventi diritto al voto non c'è che dire, una buona media, lo 0,9% del totale presente, una seduta che potrebbe essersi svolta in un ascensore. E invece nella sontuosa aula di Palazzo Montecitorio, alle 4 del pomeriggio, in aula si contano più funzionari che parlamentari, una decina di commessi, 4 stenografi, 6 spettatori in tribuna e 9, dicasi 9, deputati. Direttore dei lavori era presidente Rocco Buttiglione, che ha passato più tempo a picchiettare sul suo iPad finché il commesso ogni tanto gli diceva: Scampanelli, presidente, perché è finito il tempo. Lui: Scampanello, è l'onorevole. Sì, sì, finisco, signor presidente. C'era un sottosegretario, Giampaolo D'Andrea. E diciamoli invece i deputati, perché sono meritori. Roberto Zaccaria del PD, il relatore della Commissione Bilancio Giorgetti della Lega. Rimbomba tutto, perché l'aula è semideserta, ovviamente. I due leghisti Raffaele Volpi e per Guido Vanalli, l'udicino Pierluigi Mantini, l'indaffaratissimo a compulsare il suo iPad Renato Cambursano del Misto, i due PDellini Guglielmo Picchi e Giuseppe e Peppino Calderisi, del PD Roberto Giachetti con tanto di stampella, Massimo Vannucci, riecheggia proprio la parlata di Vannucci a un certo punto. Signor Presidente, onorevoli colleghi, certo il dibattito avrebbe meritato la presenza, oh, stai a vedere che arriva l'autocritica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia, ah, non di tutti gli altri deputati, ma di un rappresentante del Ministero dell'Economia. A seguire si è discusso invece nel pomeriggio di un tema che è questo: Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, in pratica norme che regolano l'utilizzo delle vernici per evitare che si attacchino alla chiglia delle navi alghe e molluschi marini. In questo caso tre deputati non gli hanno proprio fatta dei 9 del mattino. Ha detto no, questo argomento per favore no. E sono rimasti solo in 6 eroici. Seconda notizia, prima della pubblicità, c'è il primo caso di epurazione dal movimento di Beppe Grillo di un consigliere. Tavolazzi, il primo espulso a 5 stelle, così il Fatto Quotidiano a pagina 3, ma anche il Secolo XIX a pagina 7, Grillo caccia un suo consigliere e si scatena la protesta sul web. Qualcuno dice: Grillo, sei come Hitler. Vabbè, si sa, nel movimento Beppe Grillo c'è un blog dove ognuno dice la sua. Beppe Grillo come Hitler, va bene tutto. Il casus belli, racconta il Fatto, porta il nome di Valentino Tavolazzi, consigliere comunale di Ferrara, fondatore della lista civica Progetto per Ferrara, da ieri ufficialmente disconosciuto da Beppe Grillo. Per me da oggi è fuori dal movimento 5 Stelle. Chi lo ama lo segua. Cacciato? Il comico non usa questa parola, ma il risultato è lo stesso. Tavolazzi, punito per aver partecipato e lodato un convegno di 2 giorni organizzato a Rimini lo scorso fine settimana da alcuni attivisti, non ha capito lo spirito del movimento, ha scritto Grillo sul suo blog, che è quello di svolgere esclusivamente il proprio mandato amministrativo e di rispondere del proprio operato e del programma ai cittadini, non certamente quello di organizzare e sostenere fantomatici incontri nazionali. E dunque, visto che Beppe Grillo, dicono molti suoi seguaci anche, ha sempre rifiutato l'etichetta del leader sul principio che uno vale uno, dunque si sono ribellati a dire: ma come, un'epurazione? E sta di fatto che è il primo epurato dal movimento Beppe Grillo con tanto di scomunica ufficiale da parte del leader o non leader Beppe Grillo. Allora, alle 7:35 minuti, come detto, noi parleremo delle primarie a Palermo del Partito Democratico. Parleremo oggi di politica, primarie che hanno creato un po' di tensione all'interno del partito, primarie che hanno visto vincere, almeno stando ai risultati ufficiali, ma c'è il riconteggio in corso, si è fermato ieri sera, forse nella notte qualcuno dice che la Borsellino ha comunque perso. Sta di fatto, ballano su 30.000 voti, circa 138 voti o giù di lì, per questo numero esiguo. Cettola qualunque Maurizio ma l'avete visto? No, Fabrizio Ferrandelli è uguale, adesso ironizzo, ma tutti i giornali lo scrivono, mettono la foto, è uguale a Cettola qualunque, albanese, che interpreta nel film Fabrizio Ferrandelli. No, complimenti ovviamente per la vittoria, ma insomma non sminuisce questa somiglianza che tutti i giornali oggi ripropongono con 2 foto uguali. Cettola qualunque Fabrizio Ferrandelli ha vinto le primarie, fa anche una serie di interviste. Ovviamente ha scatenato la polemica all'interno del Partito Democratico con le nuove accuse. Ieri già il senatore Lumia, qui ai nostri microfoni, grande sponsor di Ferrandelli, ma senatore del Partito Democratico, ha detto: ora valuteremo se chiedere le dimissioni di Bersani. Bersani che dice: le primarie certo non sono un pranzo di gala, anzi a volte fanno evidenziare i problemi. Sta di fatto che tutti raccontano, anche Goffredo De Marchis su Repubblica, pagina 13, il possibile braccio di ferro con la sfida dei veltroniani, ora che chiedono un chiarimento in direzione. E qualcuno che si spinge oltre. Ferrandelli cosa fa? Per il momento fa delle interviste. Intervistato da Repubblica, Antonello Caporale dice: ha visto quello che si dicevo si è avverato, sono sempre tra la gente, notte e giorno, non mi stanco, non mi smonto, non deludo. Che cosa respinge invece? Respinge di aver fatto un inciucio col governatore lombardo, che si dice in qualche modo l'abbia appoggiato. Chi è Fabrizio Ferrandelli? Beh, ha iniziato nel Partito Umanista la propria carriera politica. Da quando ho 15 anni faccio politica, dunque faccio politica da più anni di Rita Borsellino. L'ho sostenuta durante la campagna delle scorse regionali, poi ero con l'Italia dei Valori, ho preso 1800 voti al Consiglio Comunale, poi è uscito dall'Italia dei Valori quando Leoluca Orlando gli ha chiesto di fare un passo indietro e io ho fatto un passo avanti e ora penso che diventerò il sindaco di Palermo. Il giornale mette la foto a pagina 7 e 6 e 7 è impressionante la somiglianza, due gocce d'acqua. Ferrandelli eccetto la qualunque, proprio le mettono, tra l'altro mettono la foto di Ferrandelli esultante dopo la vittoria e la foto di Cetto la qualunque che esulta durante un comizio, due gocce d'acqua, cari ascoltatori. E ci saranno ironie ovviamente su questo, no? Che dirà? Chiumeusa per tutti? Non lo so. In ogni caso, Vittorio Feltri invece in prima pagina di Libero, dunque da destra critica lo strumento delle primarie e critica Bersani scelga rifondazione o morte, scrive Vittorio Feltri. In teoria il segretario Bersani scelto con le primarie sarebbe così legittimato a comandare, almeno per il disbrigo degli affari ordinari, come appunto la scelta dei candidati alle amministrative. Invece Bersani non ha deleghe per esercitare questo potere. Domanda: ma se non vi fidate dell'uomo che avete preteso quale timoniere, che senso ha averlo votato? Qui non siamo di fronte a un eccesso di democrazia, ma di demagogia. Bersani espone la faccia e si becca gli sputi di chi ha facoltà per statuto di prevaricarlo. Siamo al paradosso. Ci stupiamo che lui sopporti una situazione simile e accetti di guidare un partito in cui il primo che si sveglia la mattina detta la linea politica. I simpatizzanti si permettono di spernacchiare il leader, facendogli fare figure barbine una dietro l'altra. Bersani abbia il coraggio di promuovere una rifondazione del Partito Democratico o una risata seppellirà lei e il suo PD con annesse primarie della malora. Vabbè, questa è l'accusa che arriva, diciamo, da destra, da Vittorio Feltri, ma anche la prima pagina del Manifesto, se la leggete oggi, titola Il gatto perdo, con Bersani appunto ritratto da Vauro che si punta una pistola alla testa con una faccia sconsolata. Il direttore del Manifesto, Norma Rangieri, dal titolo nel suo editoriale Un gioco autolesionista, scrive: un partito che alle primarie di una sindacatura cruciale come Palermo si divide su nomi di tre candidati non è un partito spaccato, è spappolato. E se il candidato sponsorizzato dal segretario non solo non appartiene al suo partito, che gliene oppone un altro, ma esce anche sconfitto, l'immagine del leader non ne esce ammaccata, si squaglia. Insomma, questo è l'incipit dell'articolo. Che farà invece Rita Borsellino? Ieri in silenzio, infatti non ci ha risposto, ma oggi alle 8.30 dovrebbe essere nostra ospite. L'amarezza di Rita e il tramonto di una città che non c'è più. Federico Geremicca la segue in una giornata in cui però è in silenzio ufficiale, e anche Mario Aiello sul Messaggero racconta la giornata di Rita Borsellino e ipotizza, glielo chiederemo alle 8.30 a Rita Borsellino, eurodeputata del PD, ipotizza che lei possa decidere di correre comunque a sindaco di Palermo. L'ira della Borsellino: potrei correre da sola, ci sono stati brogli. Questa dei brogli davvero, vabbè, sta di fatto che è così. Come sta di fatto che due votanti su tre non hanno votato Rita Borsellino. Poi c'è Leoluca Orlando, ex sindaco di Palermo, Italia dei Valori, uno che conta ancora a Palermo, che dice: noi sosterremo comunque Rita Borsellino. Insomma, si profilano queste primarie, dopo l'esito di queste primarie, un gran casino, per essere molto molto netti. L'altro tema che trovate sviluppato sui giornali è ancora quello della TAV. Sulla TAV devo sottolineare che Napolitano, il Presidente della Repubblica, ha deciso di non incontrare i sindaci valsusini contro la TAV e ha detto: non tolleriamo nessun tipo di comportamento inammissibile. Vi segnalo che La Stampa intervista il Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, nonché allo Sviluppo Economico, Corrado Passera, che in due pagine, intervistato da Luigi Laspina, pagina 2-3 della Stampa, dice: la TAV è utile e strategica per il futuro dell'Italia. È un riesame completo del progetto, della sua evoluzione storica, ci ha fatto capire che abbiamo avuto conferma di un'opera necessaria, utile e strategica per il nostro paese, oltre a essere del tutto conforme con le normative. Il progetto è fondamentale per il futuro dell'Italia, inserisce il nostro paese nella rete europea dei trasporti in una fase di sviluppo economico. Oggi alcune ragioni fondamentali per il nostro sviluppo soffrono di gravi svantaggi competitivi a causa di infrastrutture obsolete. E poi, riguardo alla Val di Susa, dice Passera, questa opera non crea danni ma porterà molti vantaggi alla valle, come dimostra l'analisi molto approfondita di costi e benefici che l'osservatorio ha promosso. Si cercherà di minimizzare gli eventuali disagi della fase realizzativa, ma non dimentichiamoci inoltre che è un'opera che non serve i soli abitanti della valle, ma va a beneficio dell'intero paese, dell'intera Unione Europea, e come tale deve essere valutata. Insomma, Corrado Passera non recede, come questo governo Monti non recede di un millimetro. Oggi invece c'è un duro attacco a che cosa? Al sistema TAV, o meglio a ciò che potrebbe generare, da parte di Roberto Saviano, l'autore di Gomorra, che firma due pagine su Repubblica, che vi invito a leggere. Iniziano in prima pagina 10 e 11, seguono poi a 10 e 11. Tutti parlano di TAV, scrive Saviano, ma prima di ogni cosa bisognerebbe partire da un dato di fatto. Negli ultimi 30 anni l'alta velocità è diventata strumento per la diffusione della corruzione e della criminalità organizzata. Un modello vincente di business perfezionato già ai tempi della costruzione dell'autostrada del Sole e della ricostruzione post-terremoto in Irpinia. Scrive Saviano: questa è una certezza giudiziaria e storica, più solida delle valutazioni ambientali e politiche a favore o contro, più solida di ogni altra analisi sulle necessità e l'inutilità di quest'opera. Insomma, scrive in queste due pagine l'autore di Gomorra, bisogna fermare le mafie che si presentano con imprese che vincono perché fanno prezzi vantaggiosi, che sbaragliano il mercato, hanno sedi al nord, curricula puliti. Il flusso di denaro destinato alla TAV rischia così di diventare linfa per il loro potenziamento, aumentandone la capacità di investimento, controllo del territorio, accrescendone il potere economico. Come vincono queste imprese? Col meccanismo della concessione, che sostituisce la normale gara d'appalto in virtù della presunta urgenza dell'opera e fa sì che la spesa finale sia determinata sulla base della fatturazione complessiva prodotta in corso d'opera. Poi Saviano cita tutta una serie di imprese che hanno lavorato, pulite all'apparenza ma legate, e con annesse inchieste giudiziarie che lo hanno dimostrato, legate in realtà a imprese, alla mafia, spesso all'andrangheta, ma non solo. Comunque Saviano: da Napoli alla Val di Susa, le mani della mafia sui cantieri della TAV. Roberto Saviano su Repubblica, due pagine. Io prima del traffico però voglio citare i versi che Turi Vaccaro ha scritto. Come chi è Turi Vaccaro? Turi Vaccaro è il pacifista, quello che è salito sul traliccio dove c'era Luca Bà, quello che un anno fa ha sfondato un F-35, un caccia F-35 con un martello, ma il martello lo avevo comprato ad Assisi perché mi si ispirava al suo mentore, San Francesco d'Assisi. È sceso dal traliccio, ha rilasciato un'intervista al Manifesto e ha detto con il suo piffero, e quindi immaginatevi questi versi accompagnati dal suono di un piffero, ce l'avessimo lo metteremmo subito, mi sono dimenticato di chiedertelo Carmelo, ha scritto questi versi per Luca Abba sul traliccio. Lunga la notte, la lotta non si ferma, lo schiaffo alla montagna è qui davanti, il tuo coraggio ti porta più in alto, l'alta tensione, il gran salto, la regina del rocciamelone, Dio ti salvi per sua intercessione. Il tuo sogno si è realizzato, il movimento si è risvegliato, tutta l'Italia sulla barricata al tuo capezzale si è radunata. Allora, poi c'è questa dichiarazione shock di Umberto Bossi, l'abbiamo sentita anche nel giornale radio. Mario Monti rischia la vita, il Nord lo farà fuori. Ora, si può dire sempre che Umberto Bossi, i leghisti parlano così per frasi forti, però, insomma, forse c'è un limite a tutto, no? Mario Monti rischia la vita, il Nord lo farà fuori. Tutto perché c'è una proposta di far cantare l'inno di Mameli nelle scuole italiane. E soprattutto Bossi ha detto: i miei figli certo non la canteranno mai, non dovrebbero andare più a scuola, peraltro. E comunque, poi ha detto anche Bossi: il Nord sta riempiendo di mafiosi in soggiorno obbligato, il Nord si sta riempiendo di mafiosi per colpa di Monti, ovviamente, in soggiorno obbligato, prima o poi qualcuno si deciderà a impiccarli nella pubblica piazza. E vabbè, insomma, Monti rischia, il Nord lo farà fuori, il ministro Cancellieri non ha gradito. Certo, come si fa a gradire una frase del genere? Intanto, per quel che riguarda l'economia, voglio segnalare due cose. Prima della notizia di cronaca, che è l'apertura per molti giornali, vale a dire i nostri Marò in India, incarcerati. Le due notizie di economia sono che si va verso la correzione sulla norma, della norma sulle banche, e c'è l'imbarazzo dei partiti, quella norma che porterebbe oggi alla dimissione in blocco dei vertici dell'ABI, l'associazione dei bancari, e che forse verrà modificata in realtà in Parlamento. Ma do solo questo spunto perché oggi Oscar Giannino avrà, tra l'altro, il presidente dell'ABI Mussari ospite dalle 9, insomma, il tema delle banche. E poi l'altra notizia: c'è un tesoretto, è stato scoperto, signori, solo in Italia, 1 milione di case o particelle, immobili fantasma, che non risultano al catasto e che per questo non pagano l'ICI. C'è un monitoraggio che va avanti da anni, di fotografie dall'alto per cercare di capire. 1 milione di particelle fantasma. Ragazzi, incredibile. Il fisco conta di incassare, se si applicasse l'ICI su queste, 472 milioni di euro. Il Corriere vi dedica una pagina, pagina 15. L'Agenzia del Territorio, sovrapponendo le mappe catastali che è in possesso con quelle delle foto, ha fatto emergere 2,2 milioni di particelle con presenze sospette, che hanno prodotto la verifica, l'emersione di 1.081.698 unità immobiliari urbane finora totalmente sconosciute al catasto e ovviamente al fisco. Trovate anche su pagina 12 del Sole 1 milione di case fantasma. Il gettito potenziale è da 2,5 miliardi di euro. Forza Monti, forza, far pagare. Il record degli abusi è in Sicilia. E voglio passare alla notizia di cronaca dei Marò, che sono in carcere in India. La loro posizione dunque si aggrava. Ieri il rappresentante Staffan de Mistura, vice ministro degli esteri, si è impuntato, scrive il Corriere della Sera, si è messo proprio di traverso fisicamente quando c'è stato l'ordine di trasferire questi due Marò, che sono accusati, lo ricordiamo, di aver ucciso due pescatori, aver sparato dalla nave sulla quale erano a bordo, perché quelli sono mari anche a rischio pirateria. Sono accusati di aver sparato e di aver ucciso due pescatori. Loro si proclamano assolutamente innocenti e sta di fatto che l'India dice le prove sono incontrovertibili, li hanno messi in carcere. E Staffan de Mistura, il sottosegretario agli esteri che sta trattando lì in India, dice: io non me ne vado da qui fin quando non si trova una sistemazione appropriata per i nostri militari. Inaccettabile che siano custoditi con detenuti comuni. Alla fine sono stati messi in una palazzina all'interno del carcere, non con i detenuti comuni, possono usare il telefono, insomma condizioni migliori, ma certo la situazione, qualcuno dice, sta diventando un nuovo caso Cesare Battisti, qualcun altro dice: ma che sta facendo la Farnesina, cioè una linea morbida. La stessa Repubblica racconta nella retroscena di Francesco Beia, pagina 7, che c'è una polemica. Lo stesso Mario Monti sarebbe un po' in rotta col ministro degli esteri Terzi per una condotta che finora non ha portato risultati. I maligni dicono: l'unica condotta positiva è quella che ha portato a far mangiare in cella gli spaghetti invece del riso al curry i nostri due militari. Sta di fatto che il giornale Libero aprono su questo, il giornale fa una polemica anche col sindaco di Milano Pisapia, che ieri si è rifiutato, il consiglio comunale di Milano, di esporre la foto dei due Marò. E allora in prima pagina, sotto la dicitura "vicini ai nostri soldati", appendiamo la foto che il sindaco di Milano ha rifiutato. Il giornale propone a pagina 3 un'intera pagina, quindi a grandezza molto molto molto ampia, la foto di Salvatore Girone e Massimiliano Latorre con l'invito: cari italiani, appendetela se vi va dove volete, negli uffici, nelle case, eccetera. La foto a grandezza non naturale, ovviamente, a grandezza del formato della pagina del giornale dei due nostri militari. E sta di fatto che la situazione rischia davvero di diventare gravissima. Trovate poi di cronaca, velocissimo, le notizie sulle l'arresto di Bellavista Caltagirone per truffa, costruttore fermato per l'appalto nel porto turistico di Imperia. Vi segnalo su questo la cronaca del secolo XIX, ovviamente molto informato per la sua vicinanza anche geografica. Infine, solo vi do il titolo, notizia imprescindibile, su Libero, pagina 19, imperdibile: la tata di Obama era un trans indonesiano, ma lui non lo ha mai saputo. Imprescindibile, leggetela su Libero, il giornale radio.